Gli ultimi sono stati nuovi giorni di passione per il trasporto aereo e al centro dei disservizi ci sono stati gli scioperi proclamati dalle principali sigle sindacali. Ecco, quali sono le ragioni dietro queste mobilitazioni? Allora, il trasporto aereo è in un momento di grande passione per svariati motivi, soprattutto la questione che dopo il Covid molte aziende, soprattutto all'estero, non hanno riconfermato i lavoratori, quindi è tutto il settore che è un po' in difficoltà. In questo si innesta però lo sciopero che la FCGL ha dichiarato insieme ai trasporti su Ryanair, che è già il terzo. Si innesta il fatto che molte di queste compagnie low cost, direi quasi tutte a parte forse una, non applicano il contratto nazionale e applicano delle condizioni veramente negative per i lavoratori. Quindi noi cerchiamo di alzare il tiro e vogliamo che per loro ci sia un contratto nazionale che già esiste, che è quello del trasporto aereo, che ci siano le questioni più semplici come quella dell'acqua a bordo, che dopo il secondo sciopero è comparsa, perché fino a prima dello scorso sciopero nemmeno l'acqua gratuita c'era, bisognava comprarsi la bottiglietta d'acqua. E anche la questione, esiste in Europa un metro regolatore, un tempo di viaggio che non può essere superato, e diciamo che la compagnia lo tira agli estremi, quindi abbiamo delle persone che si trovano a lavorare a nastro anche 12 ore e questo è un problema. Noi vogliamo essere chiamati al tavolo, Ryanair ancora non lo fa, perché dobbiamo combattere proprio per i lavoratori. Hanno diritto, lavoratrici e lavoratori, ad avere delle condizioni buone e non delle condizioni pessime. Qual è stata la risposta dei lavoratori e delle lavoratrici? Siete soddisfatti dell'adesione? Sì, siamo soddisfatti dell'adesione, anche perché in realtà per lavoratori e lavoratrici di compagnie di questo tipo è molto difficile scioperare, anche perché una parte è diretta, una parte, nel senso assunti dipendenti, una parte assunta attraverso altri canali e una parte assunta con, non sono assunti direttamente, hanno delle partite IVA, quindi è molto complicato tenerli tutti uniti e hanno paura di ritorsioni. Assolutamente un ottimo ritorno. Vi chiedo, quali sono i prossimi passi di questa vertenza? Prevedete altri show per altre mobilitazioni? Guarda, se non ci chiamano, assolutamente sì. Nel frattempo, rispetto alla cosa che dicevo all'inizio, al problema del trasporto in generale, a livello nazionale abbiamo comunque un tavolo convocato dal Ministero proprio per affrontare tutti questi problemi, ma su questa vertenza andremo avanti. Tra l'altro abbiamo fatto una... Adesso si trova anche sui nostri canali come collettiva, abbiamo fatto un questionario completamente anonimo a cui hanno partecipato più di 400 lavoratrici e lavoratori e sono venute fuori molte cose che devono essere risolte, quindi noi continuiamo. Chiaramente ci aspettiamo una convocazione al più presto, non abbiamo interesse a continuare a creare problemi o disagi ad altri, però queste lavoratrici e lavoratori davvero sono molto in difficoltà. La crisi di governo, che forse rientra e forse no, temete possa influire sull'esito di queste trattative, in bene o in male, oppure non avrà particolari ricadute? Sai, la crisi di governo di solito influiscono un po' su tutto, quindi il rischio c'è sempre. Le interlocuzioni col Ministero però sono sempre quelle, quindi io voglio sperare che non influiscano in modo negativo. Certo che una serenità di governo aiuta di più, perché le sfide sono tante, come vedete dai giornali, le problematiche di tutto il trasporto aereo sono tante e quindi avrebbe senso affrontarle con serenità. Grazie mille davvero. Grazie a voi. Allora, la ringrazio anche off the record.